Il falco e il gabbiano. E il gabbiano di Enrico Ruggeri. E oggi siamo al secondo capitolo di un'epopea, la storia di un artista straordinario, poliedrico, irriverente, uno che da più di 50 anni calca le scene del mondo, ma che influenza intere generazioni, intanto portavoce di un intero movimento di protesta negli anni 60, e poi uno che segna la storia della musica con i suoi successi classici senza tempo. Sto parlando di Bob Dylan. Gli stiamo dedicando uno speciale anche in collegamento al fatto che tra pochi giorni, il 10 dicembre, gli verrà assegnato il Nobel per la letteratura e non sappiamo se lui ci sarà perché ha detto che ha da fare. Il primo capitolo di questa epopea l'abbiamo trasmesso ieri. Oggi dobbiamo andare alle altre vite di Bob Dylan. Il riassunto è difficile, ma ci proverò. Abbiamo raccontato gli esordi, i suoi primi successi, i primi album importanti, poi la svolta rock contestatissima al Festival di Newport e poi le canzoni più innovative e anche più lunghe del suo repertorio come Like a Rolling Stones e poi l'incidente in moto che rappresenta un passaggio cruciale della sua vita e della sua carriera. Insomma, abbiamo soprattutto cercato di capire attraverso la sua prima produzione le motivazioni che hanno spinto l'Accademia svedese a assegnare a lui, che non è un letterato, il premio Nobel per la letteratura. E in realtà quello, io lo dico sempre, è un premio Nobel che dà dignità alla canzone d'autore e la proietta direttamente dentro alle antologie. Ma andiamo avanti, siamo nel 73 e lui nel 73 scrive questa canzone qua. Bussando alle porte del paradiso, Knocking on Heaven's Door, una delle canzoni più belle, più popolari di Bob Dylan. Lui la scrive per il film Pat Garrett e Billy the Kid, dove tra l'altro recita anche lui, Bob Dylan. E questo brano è stato cantato da un numero impressionante di artisti, 150, tra i quali per esempio i Guns N' Roses, che ne hanno fatto una versione che ebbe un grande successo, ma anche Springsteen, Eric Clapton, Bon Jovi, gli U2, Nirvana, Aretha Franklin, Brian Ferry, l'hanno cantata in tanti, perché ha una struttura semplice che si presta a essere arrangiata in vari stili. In ogni caso è un successo sicuro, perché la canzone è veramente immortale. Di questo film Bob Dylan ha scritto tutta la colonna sonora, che diventerà un album con lo stesso titolo, Pat Garrett and Billy the Kid. Poi l'anno dopo un altro grande album, Planet Waves, realizzato con il suo gruppo, con The Band, i musicisti con i quali aveva sempre fatto i concerti, ma con i quali non si era mai cimentato in qualcosa di così impegnativo. L'album è prodotto non dalla sua casa discografica storica, la Columbia, perché era scaduto il suo contratto, ma da una casa neonata che si chiama Asylum Record. È un album che ha un ottimo successo, che contiene un'altra grande canzone di Bob Dylan, Forever Young. Una tenera ballata che Dylan scrive pensando ai suoi figli, una ballata avvicinata alla poesia ode su un'urna greca di John Keats. È un altro punto a favore, diciamo così, della decisione dell'Accademia svedese del Nobel. Poi nel 74 c'è un altro capolavoro, uno dei suoi album di maggior successo, Blood on the Tracks, un disco molto sentito, molto sofferto. In quel periodo si dice che Dylan ci mette tutto il suo dolore per la separazione dalla moglie Sara. Probabilmente è vero, ma lui smentisce categoricamente nella sua autobiografia del 2004, Chronicles volume 1, autobiografia bellissima, non è la solite interviste con il ghostwriter che ti scrive sulle cose, lì è letteratura, se vi capita leggetela. Comunque lui dice che quei brani non avevano a che fare con la sua vita privata, ma erano stati ispirati dalla lettura dei racconti di Anton Chekhov. Credo che saremo in 9 o 10 cantanti nella storia del mondo che hanno letto Anton Chekhov. In ogni caso, Blood on the Tracks è probabilmente il suo miglior album dopo la trilogia elettrica. Il falco e il gabbiano. E poi nell'estate del 75 Bob Dylan torna a scrivere una canzone di protesta che però ha grande successo. Non ne aveva più scritte dai tempi della contestazione degli anni 60, perché lui è uno che una volta che ha cambiato la storia non ci si mette più, va avanti. Però c'è un fatto di cronaca che lo colpisce molto, è la vicenda del pugile afroamericano Robin Carter, conosciuto col soprannome di Harry Kane. Noi gli abbiamo dedicato una puntata. Carter viene accusato, probabilmente ingiustamente, di un triplice omicidio, condannato a 2 ergastoli, ma lui si dichiara innocente. Nel 74 Harry Kane scrive in carcere la sua autobiografia, ottiene il sostegno dell'opinione pubblica, la richiesta della grazia e un nuovo processo. Nell'85 poi verrà scarcerato. Ma nel frattempo, nel 75, Carter invia il suo libro Bob Dylan in memoria dei suoi trascorsi come artista impegnato nelle cause civili. E Dylan, che i libri li divora, lo legge e si schiera a favore del pugile, lo andrà anche a trovare in carcere, ma soprattutto scriverà una canzone bellissima, Harry Kane, che verrà poi inserita nella colonna sonora del film di Norman Jewison, Harry Kane e il grido dell'innocenza del 99, con Denzel Washington nel ruolo del pugile. Bene, la canzone è lunghissima, 8 minuti e 32 secondi. Per dirvi com'era il mondo una volta, io da ragazzino la ballavo in discoteca. Pensate a cosa succede nelle discoteche di oggi. Ecco, allora si ballava un pezzo di 8 minuti di uno che parlava di un errore giudiziario. Verrà inclusa nel bellissimo album Desire del 76 e creerà un altro caso, Harry Kane. Desire è un altro grande successo di Bob Dylan, doppio disco di platino, e in quegli anni i dischi di platino si davano a 2 milioni di copie. È una serie di canzoni stupende come Isis, Black Diamond Bay, soprattutto Sara, o Sera come avrebbe detto lui. Dylan realizza questo disco con dei musicisti con i quali poi suonerà nella famosa Rolling Thunder Review, che è una folle tournée itinerante per gli Stati Uniti, dove lui si esibisce con cappelli vistosi sormontati, non so, da composizioni floreali, con bandane multicolori, il viso tinto come il clown dei circhi. È una tournée, 60 concerti, alla quale partecipano grandi musicisti come John Baez, come la violinista Scarlett Riviera, come Joni Mitchell e come un grande chitarrista, uno dei miei preferiti, Mick Ronson, già chitarrista di David Bowie. Il tour tra l'altro viene ripreso in uno special televisivo Hard Rain, da Hard Rain Gonna Fall, altro capolavoro di Bob Dylan, che fa da sfondo a un film che Dylan sta girando, che uscirà nel 78, Reinaldo e Clara, con Joan Baez e con Sara, la sua ex moglie, un film che viene criticato aspramente al punto che lui deciderà di ritirare la pellicola dalla distribuzione. Naturalmente il film poi è diventato un pezzo di cult movie ricercatissimo dai collezionisti. Quello che è interessante in questo film è che diverse sequenze sono un esplicito omaggio alla letteratura, alla poesia, ci sono reading letterari di autori impegnati. Insomma, cerca Bob Dylan di alzare l'asticella del suo pubblico, l'interesse verso la letteratura è una costante del suo percorso, e chi lo ama lo deve seguire, e una volta seguito Bob Dylan sei migliore di prima. Alla fine del 78 avviene un altro passaggio chiave della sua vita e della sua opera. Lascia la sua religione d'origine, l'ebraismo, e diventa un cristiano rinato. Poi lui contesterà questa definizione. A lui non piace che si dia nessuna definizione, però questa conversione radicale lo porta a realizzare 2 album di musica gospel. Il primo è Slow Train Coming del 79, che contiene la canzone che gli vale il Grammy Award dell'80 per la miglior performance vocale rock maschile, la canzone Gotta Serve Somebody, bisogna servire qualcuno. Qualunque cosa faccia, l'uomo deve servire qualcuno, o è Dio o è Satana, non ci sono vie di mezzo, bisogna decidere da che parte schierarsi. Questo lo dice lui, Bob Dylan, questa canzone, ma anche in tutto l'album. Slow Train Coming è pervaso da questo mood. Peraltro c'è la grande collaborazione di uno che da Bob Dylan aveva imparato molto, Mark Knopfler dei Dire Straits. Insomma, io la prima volta che ho sentito i Dire Straits sembravano veramente un delle cover di Bob Dylan con uno con la voce un po' più rotonda. E il messaggio è perentorio, è influenzato dalla conversione di Dylan, dalle lezioni di lettura della Bibbia alle quali assiste. E i fan, ovviamente, come già accaduto in passato, sono sconcertati. John Lennon gli risponde, scrive il brano Serve Yourself, servi te stesso, che è una velenosa parodia della forte religiosità contenuta in Gotta Serve Somebody, che Lennon definisce pessima, patetica e imbarazzante. E non lo pensa solo lui, le polemiche del 65, quando lui aveva abbandonato il folk in favore del rock, non sono niente a confronto dello sconcerto dei suoi fan di fronte a questo suo fondamentalismo religioso. Il secondo album è ancora peggio, si chiama Saved, salvato, siamo nell'80. Il primo album comunque aveva avuto successo. Questo album riceve critiche negative ed è anche un fallimento commerciale. È uno degli album andati peggio della storia di Bob Dylan. Nell'81 esce Shoot of Love, l'ultimo album di Dylan a carattere religioso, anche se non è più gospel, sono canzoni di vario genere, però non così radicali. Forse lui sta per uscire dal suo vortice religioso, e in un'intervista del 97 a proposito della religione, per esempio, dirà così: il rapporto tra me e il pensiero religioso è sempre stato altalenante. Ora ho trovato la religiosità e la filosofia nella musica. Non l'ho trovata da altre parti. Non aderisco a rabbini, predicatori, evangelizzatori e tutto il resto. Ho imparato più dalle canzoni che da qualsiasi altra entità. Io credo nelle canzoni. E in Shoot of Love ci sono canzoni anche lontane dalla religione, come per esempio l'omaggio bizzarro che Dylan fa a un noto comico ebreo sovversivo dalla parlantina sciolta e dal linguaggio osceno e provocatorio. Lui lo definisce un precursore, un romantico, martire del perbenismo di quell'epoca. Insomma, Bob Dylan si schiera con Lenny Bruce e gli dedica addirittura una canzone. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi, ma lo era stato anche ieri, è Bob Dylan, che sabato prossimo 10 dicembre riceverà il Nobel per la letteratura, un Nobel molto discusso. Il Nobel è un premio che conferisce dignità a tutta la produzione di un artista, e nel caso di Bob Dylan per aver creato nuove espressioni poetiche nella grande tradizione della canzone americana. E in realtà potevano dire ha inventato la tradizione della canzone americana. Comunque, noi stiamo ripercorrendo le tappe principali della sua vita e stiamo cercando di comprimerle in due puntate. A questo punto siamo arrivati all'inizio degli anni Ottanta, dopo la parentesi religiosa che lo porta a realizzare album definiti evangelici dai critici. Poi c'è un decennio che non vede Dylan raggiungere le vette creative o di successo ottenute negli anni precedenti, ma anche perché times are changing, direbbe lui, perché i tempi stanno cambiando. Riceve critiche spesso negative per album come Infidels, Empire Burlesque, Knockout Loaded, Down in the Groove o Mercy. Poi c'è una raccolta dei suoi più grandi successi, Biography nell'85, uno dei primi esempi di box set, cofanetto con tre dischi. Nell'88 viene inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel discorso di presentazione Bruce Springsteen parla così di Bob Dylan: Dylan è stato un rivoluzionario. Elvis ci ha liberato il corpo e Bob ci ha liberato la mente. Lo ha fatto. Ci ha dimostrato che solo perché la musica è fisicamente innata non significa che sia anti-intellettuale. Aveva la visione e il talento per espandere la canzone pop fino a contenervi l'intero mondo. Ha inventato un nuovo modo di cantare, ha infranto i limiti di quello che può raggiungere un cantante e ha cambiato la faccia del rock and roll per sempre. Il fatto è che oggi, dovunque si faccia la grande musica rock, lì c'è l'ombra di Bob Dylan e continua ad esserci. There is the shadow of Bob Dylan over and over and over again. parole sante. Ogni volta che si fa della grande musica rock c'è l'ombra di Bob Dylan, e in quegli anni, negli anni di cui stiamo parlando, Dylan raccoglie quello che ha seminato in passato. E poi però ha un altro colpo d'ala che io ho apprezzato tantissimo: lui crea una band con George Harrison, con Roy Orbison, che era un cantante che viene recuperato, un cantante degli anni 50 meraviglioso, e poi Jeff Lynne dell'Electric Light Orchestra e Tom Petty. Una band, la chiama Traveling Wilburys, che fa un album meraviglioso. Poi Bob Dylan riceve un Grammy Award alla carriera, organizza concerti celebrativi come quello per il suo 30° anniversario al Madison Square Garden, e poi altri album: Under the Red Sky, Good As I've Been to You, World Gone Wrong. Poi sono album di suoi vecchi successi in gran parte. Insomma, sembra che Bob Dylan non abbia più molto da dire di nuovo. E poi invece nel 97 c'è un colpo d'ala grandioso: arriva Time Out of Mind, un album straordinario, considerato sia dai fan che dai critici il ritorno artistico di Bob Dylan. E non ci sono avvisaglie di questa rinascita. Lui inizia la stesura di queste nuove canzoni mentre è bloccato dalla neve nella sua fattoria in Minnesota, lontano da tutto e da tutti. Poi viene ricoverato in ospedale per una pericardite che poteva essergli fatale. Dirà: questa volta ho veramente pensato che avrei visto Elvis, però invece ce la fa, si riprende perfettamente e si gusta un grande successo. È perché l'album lo sdogana presso una nuova generazione, i giovani in qualche modo scoprono Bob Dylan, e soprattutto ha molto successo la canzone Love Sick. E questo è un album che vale a Dylan 3 Grammy Award: miglior album dell'anno, miglior album folk, miglior performance vocale. Premio strano, ma lui con la sua voce così personale in qualche modo questa volta varca altri confini cromatici della voce. E poi si esibisce davanti a Bill Clinton e davanti a Papa Giovanni Paolo II, davanti al quale addirittura si toglie il cappello fisicamente, cosa che Bob Dylan non credo che farebbe per molti altri. E poi nel 2000 scrive una canzone per il film Wonder Boys di Curtis Hanson con Michael Douglas, e nel 2001 vince il Golden Globe e l'Oscar come miglior canzone. Si intitola Things Have Changed, le cose sono cambiate. Il suo album successivo è prodotto da uno che si chiama Jack Frost, che in realtà è uno pseudonimo di Bob Dylan, cioè si produce da solo. L'album si chiama Love and Theft, Amore e Furto, che è anche il titolo dell'ultimo album di De Gregori, che traduce. De Gregori è forse il più grande Bob Dylanologo e amante di Bob Dylan di tutta Italia, traduce delle canzoni di Bob Dylan e le chiama come quell'album lì, Amore e Furto. Comunque, l'album Love and Theft esce l'11 settembre del 2001 e curiosamente alcuni dei testi sembrano premonitori dell'attacco terroristico al World Trade Center. Per esempio Lonesome Day Blues, il blues di un giorno solitario, dice così: oggi è stato un giorno triste e solitario. Stanno facendo un grosso macello, stanno lanciando sabbia sul pavimento. La notte scorsa il vento mormorava, io cercavo di capire cosa fosse. Mi dico che qualcosa sta per accadere. E tra Love and Theft e l'album successivo passano 5 anni, durante i quali Bob Dylan fa altro. Scrive la sua autobiografia, il primo di quella che dovrebbe essere una trilogia, ma per ora è rimasto l'unico, Chronicles volume 1, dove lui chiarisce punti importanti, per esempio sul folk e sulla canzone di protesta. Il mondo della musica folk era stato come un paradiso che dovevo lasciare, così come Adamo aveva dovuto lasciare il suo giardino. Era troppo perfetto. Di lì a pochi anni una vera e propria bufera di merda si sarebbe scatenata. Tutto avrebbe cominciato a bruciare. Reggiseni, cartoline precetto, bandiere americane. Io non ho mai scritto una canzone politica. Le canzoni non possono cambiare il mondo. Oramai ho smesso di pensarlo. E lui dice così, ma il mondo per un certo periodo è proprio cambiato grazie a gente come Bob Dylan e John Lennon. Intanto lui scrive la sceneggiatura di un film, Masked and Anonymous, che non ha grande successo. In compenso ha seguito un bellissimo documentario che Martin Scorsese realizza su di lui, No Direction Home, Bob Dylan. E finalmente nel 2006 un altro colpo d'ala: Bob Dylan produce un album nuovo, un altro capolavoro, Modern Times. Times, un album blues con canzoni inedite, vecchie ballate, testi di poeti ai quali lui si ispira. Modern Times è un grandioso successo, viene premiato con un Grammy Award come miglior album contemporaneo di musica folk, e poi Dylan si aggiudica anche il Grammy come miglior performance vocale con la canzone Someday Baby. E questo è un album che scatena un grande dibattito sulle colonne del New York Times e anche su altri giornali, perché non tutti i critici sono d'accordo sulla contaminazione tra poesia, letteratura e musica. Già 10 anni fa Bob Dylan divide l'opinione pubblica su letteratura e musica, come accade in questi giorni. Lui ovviamente cosa fa? Si disinteressa di questa diatriba, diventa conduttore radiofonico anche lì, insomma, conduttore di un programma molto interessante che va in onda per 2 anni, il Theme Time Radio Hour, un programma settimanale in cui parla di un tema specifico, magari i fiori, le lacrime, il baseball, e li abbina delle scalette musicali che sceglie lui, rivelando cultura, eclettismo e anche il suo umorismo. Poi nel 2007 stupisce ancora i suoi fan con una mostra di 170 acquerelli, nel 2008 prende un altro premio, il premio Pulitzer alla carriera. La motivazione è per il profondo impatto sulla cultura e sulla musica popolare d'America, grazie a composizioni liriche dallo straordinario potere poetico, praticamente la stessa motivazione del premio Nobel. E poi nel 2009 esce il terzo album che Bob Dylan si produce da solo con lo pseudonimo di Jack Frost, Together Through Life, insieme attraverso la vita. Anche lì c'è un grandissimo successo, raggiunge la vetta delle classifiche, anche perché c'è una traccia che è una stupenda canzone il cui titolo è una citazione di Ovidio: Beyond Here Lies Nothing, oltre questo posto non giace nulla. Poi c'è un album nel 2012 dove per una volta avviene il processo contrario, cioè Bob Dylan dedica una canzone al Titanic come De Gregori aveva fatto tanti anni prima. La canzone è meravigliosa, dura 14 minuti, si chiama Tempest e dà il titolo all'album. E poi si dà alla scultura, poi escono ancora 2 album, Shadows in the Night e Fallen Angels, 2 album particolari, perché Bob Dylan canta Frank Sinatra, cover dei successi di Frank Sinatra, spiazza ancora una volta tutti. Bob Dylan adesso ha 75 anni, è stato sposato 2 volte, la prima l'abbiamo detto, Sarah Lance nel 65, dalla quale ha avuto 4 figli, e la seconda nell'86 con Carol Dennis, una sua corista, dalla quale ha avuto 1 figlia per poi divorziare. Ha fatto tutto, ha fatto il cantautore, lo scrittore, l'attore, il pittore, lo scultore, ha vinto tutto quello che si poteva vincere. Rimane solo da sapere se sabato si presenterà a Stoccolma per ritirare il suo Nobel per la letteratura. Abbiamo raccontato una storia piena di colpi d'ala, di creatività, una storia che ha cambiato la storia della musica e anche della letteratura negli ultimi 50 anni. Bob Dylan, uno che ha lasciato decine e decine di segni indelebili nella nostra anima, ma ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche dare un colpo d'ala che lo porti a volare in alto. Se volete mandarci dei commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito www.radio24.it, scrivete al nostro Facebook, al nostro Twitter o al mio Facebook e Twitter, così come già fate. Insomma, se volete, sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.